Mix 24 di Giovanni Minoli. Signore e signori, ecco a voi il centro della Terra. Ci serve una caverna. Queste rocce e queste grotte, quali altri posti sono sconosciuti all'uomo? Siamo a 4 km dall'imboccatura, a 1 di profondità. Non sono rimasti altri luoghi da esplorare nel pianeta. Mi rimane che una possibilità, usare tutte le mie conoscenze scientifiche per venirne fuori. Restiamo sempre nella nostra caverna, al buio, notte dopo notte, giorno dopo giorno. Francesco Sauro, speleologo, 31 anni, padovano, è stato inserito dalla rivista inglese Time fra i 10 giovani leader della nuova generazione, quelli cioè che incidono sul cambiamento del pianeta. L'abbiamo raggiunto in Sardegna, dove sta tenendo un corso agli astronauti dell'Agenzia Spaziale Europea. Che ci fa un esploratore di caverne con gli uomini dello spazio, Sauro? Sempre di esplorazione si parla, esplorazione dello spazio, esplorazione della Terra, sempre viaggi verso luoghi sconosciuti, solo che lo spazio è lontano, invece le profondità della Terra le possiamo toccare con mano. Ma le analogie dove sono? Innanzitutto il tipo di ambiente delle grotte, è sostanzialmente un ambiente che non ha riferimenti temporali, noi siamo abituati al giorno e alla notte. Mentre se andremo in un viaggio attraverso lo spazio in un altro pianeta, ovviamente questi riferimenti cambieranno o non ci saranno. E sottoterra è uguale. Lo stesso vale per le grotte, dentro sottoterra non abbiamo giorno e la notte. Poi l'aspetto dei luoghi confinati, no? Comunque viaggiare nello spazio, per quanto sia immenso, vuol dire viaggiare in una navicella spaziale, che è un ambiente confinato dove dobbiamo vivere, magari con un gruppo, fare tutta una serie di attività, e la stessa cosa succede nelle grotte. Senta, lei si è guadagnato la copertina del Time grazie al lavoro che ha svolto in Venezuela. Ecco, che cosa ha scoperto in Venezuela? In Venezuela abbiamo portato avanti un progetto da vari anni insieme con un'associazione italiana che si chiama La Venta, e abbiamo cercato sostanzialmente delle grotte in questi massicci che sono chiamati Tepui, che sono uno dei paesaggi più antichi della Terra, e le abbiamo trovate, una in particolare, una grotta immensa. Cioè queste grotte sono le grotte più antiche del pianeta? Esattamente. Cioè nessun uomo era mai passato lì? Nessun uomo era mai entrato in queste cavità. Già le montagne non sono mai state scalate, non sono mai state esplorate neanche sulla superficie. E queste grotte, questa grotta più antica del pianeta, che aria si respira? È una grotta immensa, stiamo parlando di circa 25 chilometri di condotti sotterranei con numerosi ingressi. Tutta questa interconnessione con la superficie fa sì che ci siano delle correnti d'aria molto forti, infatti l'ingresso si chiama la porta del vento. Cioè, in realtà dentro la grotta, adesso che mi ci fa pensare, c'è anche una cosa particolare, c'è un odore particolare. Perché dentro la grotta, e questo è sicuramente dovuto alla presenza di batteri, ci sono sostanzialmente in atto dei processi particolarissimi che stiamo studiando, e si sente un odore molto particolare che è unico e caratteristico, che non ho mai sentito in nessun'altra grotta del mondo. Ecco, ma che cosa cercate lì? Sostanzialmente la grotta è un testimone, no? È uno scrigno. Sì. Tutto quello che ci cade dentro, tutto quello che succede lì dentro rimane come conservato anche per milioni, decine, centinaia di milioni di anni. Esplorando una grotta del genere si entra in un ambiente che sostanzialmente non ha subito importanti variazioni, magari da 10 milioni di anni. Quindi il patrimonio di un miliardo di anni completamente intatto. Ma lei personalmente di questi paesaggi teatrali, questi colori, un po' me l'ha detto, l'odore, ma che cosa l'ha stupito di più negli abissi della Terra? Sottoterra la realtà supera sempre l'immaginazione. Cioè noi possiamo farci dei viaggi mentali, pensando che c'è questo tipo di roccia. Poi quando si va in esplorazione è tutto diverso. Si ha un po' paura? Ah, certo. Ma paura di cosa? Di perdersi? Diciamo che sono esplorazioni che si svolgono molto lentamente, quindi cerchiamo di avere il tempo di orientarci, di fare mappe, non è che ci lanciamo in delle corse esplorative. Ma allora la paura di cosa? La paura dell'ignoto. Faccio un esempio molto semplice. Non sappiamo che forme di vita esistono là sotto. Per esempio insetti particolari, insetti che hanno sviluppato modi di sopravvivere. Quindi pericolosi anche. Pericolosi, oppure batteri che sono evoluti in un certo modo, per cui potrebbero anche essere. Ma dottor Sauro, ma queste ricerche a cosa servono? Capire l'evoluzione. l'origine della vita. Perché sottoterra ci sono delle condizioni ambientali che sono molto più simili a quelle della nostra terra primordiale. E sottoterra la vita si deve adattare, deve trovare il modo per sorgere sostanzialmente. E chi finanzia queste vostre ricerche? Qualcosa dalle università, ma sostanzialmente gran parte viene finanziato da privati, premi che sono stati molto utili. Io nel 2014 ho vinto il Rolex Award for Enterprise, che mi ha permesso di avere una base economica importante per fare ricerca. Ma la copertina del Time le ha permesso di riavere un contratto con l'Università di Bologna che aveva perso. Bizzarria italiana. Com'è andata esattamente questa rinascita del rapporto con l'Università di Bologna? È andata nel senso che abbiamo discusso molto serenamente con il rettore sul fatto che era importante più che altro il discorso della ricerca, no? Non è tanto il fatto di che io non continuavo quel corso, era già previsto, non è stata una cosa capitata, è capitata per caso contemporaneamente col Time. Ma il problema è un altro, è che se io me ne vado da lì, la ricerca che abbiamo cominciato su Itepui dovrà trovare per forza altre realtà. Certo. Quindi è chiaro che l'università poi ha capito l'importanza della ricerca che veniva portata avanti, e quindi abbiamo trovato una soluzione, soprattutto con dei fondi, per riuscire a poi andare avanti. Senta, dottor Sauro, per finire, le grotte come gli oceani sono l'ultima frontiera inesplorata del globo. Che cosa c'è da aspettarsi da questi abissi? Quello che ci aspettiamo, quello che mi aspetto io, che troveremo nei prossimi anni, sarà una maggiore consapevolezza della storia del nostro pianeta, che poi sarà applicabile e trasportabile all'esplorazione di altri pianeti. Time dice che lei è uno dei leader della nuova generazione, l'abbiamo detto, che incidono sul cambiamento del pianeta. Quindi lei influenzerà il destino del mondo, come ha predetto Time. Ma come lei può influenzare il destino del mondo? Facendo cosa? Per quanto riguarda il mondo sotterraneo, che chiaramente io mi sento un po' adesso di rappresentare il mondo della speleologia, delle persone che cercano naturale. Di esplorare, è quello di emergere dal buio e raccontare questo mondo all'esterno, alle persone. Perché è un mondo importantissimo, qui siamo legati di fatto, perché basta pensare alle acque carsiche, le sorgenti che danno le acque agli acquedotti, è tutto legato al mondo sotterraneo. Certo. Quindi il fatto di prenderne coscienza a livello di uomini è importantissimo, perché su questo si basa anche il nostro futuro. Vorrei rispondere a David Gori, che ci dice: pur di non parlare troppo della disfatta del razzismo, vi date alla speleologia. Ma intanto lo consiglio di restare in ascolto domani e sentire la canzone della Sora Cesira, che è abbastanza carina. E vorrei ricordarvi una cosa che è ritornata molto spesso nei salamini di Pietrangelo. Mi fai sentire quella cosa? Cos'era? Ma non è suo papà? Sì. Burlava i correntisti con scarsa pietà. Ma scusi, non è suo papà? Questa l'abbiamo mandata in onda una cinquantina di volte. È diventata un hit. È diventata una hit, insomma, comunque. Vabbè. Che cosa ci fai ascoltare, Pietrangelo? Eccola. Vabbè. I've tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I feel your love? Allora un altro amore. Un altro amore prima di me ha reso il tuo cuore triste e malinconico. E così il mio cuore sta pagando adesso per cose che non ho fatto. Come faccio, ed era Saffo oggi in metropolitana a chiederselo, come faccio a sciogliere il tuo cuore freddo? E c'era Saffo in metropolitana, teneva sulle ginocchia il Rocci, il dizionario di greco, e aiutava i ragazzi a trovare le parole per l'esame più difficile, che è l'amore. They make the teardrop start. Why can't I feel Mario? No, è me, l'amore. Vabbè, il liceo classico. L'amore ci piace, quindi ne parliamo volentieri. Lui ci stimola. Oggi c'è il greco. C'è il greco. C'era Saffo. Chiudo Skype a risati. Cosa? Curus kai parusatidus, gignon tai paides duos, presbyteros menar taxetus. Alla faccia! Neoteros de curus. Il bicarbonato di sodio. Mario, qui Pantarei. Cosa avete fumato stamattina? Siete matti? Il Rocci. Bellissimo. Gli Oasis. E io vi voglio fare un po' di domande sulla Brexit, perché mi interessano le vostre opinioni, perché tanto stanno votando, quindi già stasera avremo un primo assaggio del risultato. Ma io penso che la drammatizzazione dell'uscita della Gran Bretagna è stata una forzatura, penso. Beh, che sarebbe uno shock, certamente un grande shock, ma uno shock che potrebbe far rinascere e ridare un'anima all'Europa. E poi? E poi la fine della City, Francoforte, Parigi, Milano potrebbero diventare le piazze che ereditano qualcosa di importante passando attraverso una crisi, però le crisi ogni tanto sono salutari. E tu un buttafuoco? Siccome tutti i ricchi, i potenti, i satrapi sono contro il Brexit, istintivamente sono per il Brexit. In ogni caso aspettiamo i risultati, certo. E poi farò sentire con grande giubilo una canzone italiana, la sagra di Jarabub. La sagra di Jarabub stamattina. La sagra di Jarabub. E tu però, tu non hai detto, tu invece non lo sai, aspetti i risultati, vediamo un po'. Io sono inequivocabilmente per il Remain. Poi vediamo. Ah, sei inequivocabilmente, perché pensi che sarebbe una tragedia per il mondo il Brexit? No, però penso comunque che, per penso i banchieri sarebbe una tragedia. No, per i banchieri, ma chissà. No, poi, io penso che è meglio. Una tragedia per i disoccupati. Però come fai con Soros che invece vuole l'uscita? Soros è uno speculatore, non mi risulta che Soros voglia il bene comune, è uno speculatore, fa il suo mestiere, è un bel mestiere, però è un bel mestiere. Io penso che sia meglio il Remain, tutto qua. Vediamo. Io non penso che sia meglio il Brexit, però penso che è stato drammatizzato troppo. Questo sono d'accordo. È stato drammatizzato troppo e quindi questo eccesso di drammatizzazione mi puzza. Sono d'accordo con te. No, ma sai, perché non sanno cosa succede dopo, quindi c'è paura. Invece a me piace sapere che non so cosa succede dopo. Un pizzico, un friccico di emozioni. A Gordon Gekko sarebbe piaciuto sicuramente il Leave, per esempio, perché è uno speculatore. Agli squali piace molto questa allora, cosa. Allora, Pietrangelo, il tuo salamino oggi. Signori, si nasce! Signore, ancora di più. Allora, prima uscita ufficiale ieri di Virginia Raggi, neo sindaco di Roma. C'è stata, caro Giovanni, una cerimonia alla Pontificia Università Lateranense. Il titolo è Celebrazione giubilare per le donne e per gli uomini impegnati nelle istituzioni pubbliche. Abbiamo visto una bellissima fotografia che spiega tutto. Abbiamo visto e soprattutto abbiamo letto un articolo di Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera che l'ha redatto proprio con le parole, con i toni e con lo stile degno di Marcel Proust e nel ruolo addirittura. Sì, sì, sì, sì. No, e perché lui ha pizzicato nel ruolo di Madame Verdurin, severa custode dei salotti, lei. Solo lei. Davo va fana foto, davo va fana foto, chiamo va bello fa bellezza mia. Bellezza mia, bellezza sua, assediata dalla Kodak, che fa tac, chi c'è? C'è la soave, silente, solinga Maria Elena Boschi che fende la ressa dei fotografi. Fende, vedi questo gesto Mario, fende la ressa adesso dei fotografi. Quando sarà in televisione si vedrà il gesto. Fende, in televisione si vedrà il gesto, fende. Però nella radiovisione si vede meglio. Ah, beh, certo, perché... fende la ressa dei fotografi e la guarda, neppure la saluta perché c'è appunto Virginia Raggi. E niente, certo, niente. Che succede? Ancora una volta, te vuoi fare una foto. Entra tra le fotografie il ministro Angelino Alfano, e qui il nostro Proust Roncone annota: neppure lui, tradendo i principi della cavalleria siciliana. Però secondo me non è di Agrigento, Alfano Giovanni, secondo me è del Kansas City, una cosa simile. Neppure lui saluta il sindaco, neppure lui entra ancora tra una ressa dei fotografi. Entra il ministro Stefania Giannini e con passo deciso, lo sottolinea Proust Roncone, va a salutare Alfano. Figurati, certo, signori, certo. Si nasce, signore ancora di più, e la Raggi per tutti loro è trasparente. Allora, e che succede? Che questa Maria Elena, novella Madame Verdurè, se ne sta assisa sotto la pioggia dei flash, mentre il neo sindaco, raggiunta dai sostenitori, concede i selfie. Arrivano nel frattempo Rosy Bindi, Stefano Fassina, Laura Boldrini visibilmente contrariata perché, come sappiamo, la Raggi non si fa chiamare sindaca. Ma caro Mario, signori si nasce, signore ancora di più, entra, caro Giovanni, una vera signora. Ah, chi sarà mai? Il ministro Marianna Madia. E finalmente, con passo deciso, contratto elegante e fine educazione, caro Mario, il sangue missino non può tradire. Ma che sta a dire? Certo, il sangue missino non può tradire. Certo, il sangue missino non può tradire. Va a stringere la mano al neo sindaco e a complimentarsi con lei. Comincia la cerimonia. Gli incaricati del Vaticano si avvicinano al sindaco Raggi, nel frattempo si era seduta in una fila laterale dietro, e la pregano di accomodarsi al posto a lei riservato, ecco. E cioè in prima fila tra Rosy Bindi e, colpo di scena, chi c'è accanto a lei? Madame Verdurin, Maria Elena Boschi, su cui piombano come gelo le note vindici di una sola canzone. Fatti più là, così vicino mi fai turbare. Tu andrai in televisione. Che sofferenza, Mario, eh? No, beh, io andrà, sai, lì si vedrà, li vedremo, sentiremo queste cose. Esatto. Vedremo. Allora, Mario, c'è la tua bolla? Io attendo buttafuoco al varco con Maria Elena. Bene, allora. Con sì, Marie? Con Maria Elena. Marie. Fate da bravi. Allora, la democrazia è bella perché è varia e succedono molte cose. E alla Camera degli Stati Uniti, per esempio, c'è in corso una protesta dei democratici fortissima, anche molto divertente, canti, balli, proteste di vario tipo, diciamo, perché ci sono in discussione dei provvedimenti per il controllo delle armi, che in realtà non sono stati ammessi, quindi grande protesta, e i repubblicani hanno spento le telecamere. Ora, la politica è rappresentazione, come sanno tutti, è comunicazione, e a un certo punto i democratici hanno detto: e mo che famo? E si sono inventati il live streaming in aula, con Periscope e con Facebook Live. È la prima volta che accade una cosa del genere, e guardate, non è una piccola cosa, perché c'è un divieto, che esiste anche nel Parlamento italiano, tra l'altro, di filmare. È come le riunioni streaming, è la prima volta. Si sono attrezzati e hanno fatto la diretta, ed è la dimostrazione, appunto, lo commentavamo prima con Giovanni, che la tecnologia precede e poi arrivano le regolamentazioni. Certo. La cosa che mi ha colpito, Giovanni, che invece mi piacerebbe che tu commentassi, è il fatto del bisogno della politica di proiettarsi, di essere immagine. Non vive se non è immagine. Ecco, e questo però... È purtroppo un pregio da una parte, ma è anche un limite. Ma è anche la sua tomba. Sì, perché... Come è che diceva Dante? Dio acceca chi vuol perdere. Solitamente molti. La Iubris. Dizionario Rocci. Ma oggi siamo... Vuoi che ti dica una poesia in greco? Rifallo. Dai, andiamo, va. Non lo fa. Per chiudere, deciso, Gloria Guerrera, cosa ha scelto per noi? Oggi una canzone per chi odia senza amare e ama senza conoscere. E intanto anche oggi Londra brucia. Negramaro. È tanto che cammini.